Violino nero, nero, nero, nero come un cuore di leone, vittime di Einstein dentro un fritta carne, McDonald's a ore di bimbi hamburger, il bimbo nel loro cavo digeritore, terrore, terrore, terrore. Vedo negli occhi di un bimbo il futuro di una 24 ore, malore, anzi, ansia, adore, cor di leone. Vittime di terrore, dolore riaffiora, trionfo di lacrima quando vedrai il tuo splendore. Subire o combattere, vedere o chiudersi dentro, capire o finto tontismo, volo sul viale del baratro, filo teso tra yin e yang, il bene e il male si fondono, ma in taluni squallori vedo solo odore di blood, di una 24 ore vedo orrore in guerre, di confine, di comodo, di poltrone. Mi sparo di seta al laccio di una calibro 90, costretto a spingere più di un terremoto tra le facce di Satan, un amen mio, diserzione dall'orrore, questo mondo è un film dell'orrore, questo mondo è un film dell'orrore, un film dell'orrore. Io che ho visto dai miei occhi fin dell'orrore, violino nero, nero, nero, nero, come un cuor di leone, vittime di Einstein dentro un tritacarne, McDonald's ore di bimbi hamburger, il bimbo nel loro cavo digeritore, terrore, terrore, terrore. Vedo negli occhi di un bimbo il futuro di una 24 ore, mentre malore, anzi, ansia, adore, cuore di leone, vittime di terrore, dolore raffiora, trionfo di lacrime, quando vedrai il tuo splendore, subire o combattere, vedere o chiudersi dentro, capire o finto tontismo, volo sul viale del baratro, filo teso tra yin e yang, il bene e il male si fondono, ma in talun squallore vedo solo odore di blood, di una 24 ore vedo orrore, orrore di guerre, di confine, di ascensori, di scale sociali, mi sparo a seta al laccio di una calibro 90, costretto a spingere più di un terremoto tra le fasi di Satan, un amen mio, descrizione e deserzione all'orrore. Questo mondo è un film dell'orrore, questo mondo è un film dell'orrore.